chi gira la ruota oggi? Dobbiamo fare Ambra, Baci, Cico, Co, tre civette, saltiamo Alberto. No, Alberto, sei Ioris oggi. Beh, Ioris, dai. L'ho fatto una volta sola. Questa vediamo va. Se funziona. Sì, punto. Basta, grazie, avanza. Alberto, grazie. Vedi? L'ho aggiustata. S di scherzo. Sì, però continua a dire parole che non vanno bene, perché scherzo, mi spieghi cosa c'entra con l'attualità? Ma scherzo è bello, no? Vedi, scherzo, hai detto, piace. È divertente. Ecco. Ho capito che piace ai bambini, però dobbiamo stare sulle cose attuali. Quindi S di social network, scusate. È una cosa attuale. Beh, insomma, è appena stata cambiata la timeline di Facebook. Non lo so nemmeno io, però pieno di articoli dappertutto, commenti, ho provato a leggere, non ci ho capito niente. Deve essere forse la cosa dei feed. La home, no? Dei feed. Non lo so, però dobbiamo parlare vabbè. Tutta la puntata con queste terminologie feed, no, allora, post. Stiamo proprio, stiamo terra a terra. Pensiamo allora a quello che succede fuori dal nostro piccolo orticello, capito? L'Europa, gli Stati Uniti, Facebook è una cosa di svago, quasi irritante. Invece se vai fuori da questi nostri posti così privilegiati, vai in Africa, in Asia, Facebook è diventato un vero e proprio strumento di lotta. Pensa alla primavera araba, La primavera araba, Libia. Questa sarebbe l'attualità, Drago. La primavera di 2 anni fa. Beh, adesso fa anche freddo, non siamo nemmeno in primavera. Appunto. Hai ragione. Però la primavera araba. Ciao amico, noi d'Egitto con i di Facebook abbiamo fatto rivoluzione, capito? Cambiato tutto paese, cambiato tutto, mandato via di Mubarak, di zio, di cugino, di tutta la famiglia. Venuto carabinieri con esercito della piazza, con tutti i cartelli, ma andato via perché tutto stufo di questo casino, capito? Perché di Facebook è tutto aiutato, tutto il mondo e anche l'egiziano d'Egitto è venuto lì per fare casino di Madonna con Facebook, ma non piace perché tu quando vai di Facebook va a mettere piace o non piace più, ma a me non piace più, non piace subito, non mi piace più, perché io non piace anche prima di guardare. Invece YouTube mi piace perché tu metti piace o non piace, capito? Diverso di Facebook che metti piace o non piace più. Non piace subito, allora io voglio un pollice con un dito di per terra che guardi e dici ti piace o non piace subito, non quando viene dopo. Così mi piace, capito? If the internet crashed all across the land, or my Facebook account was deleted by the man, I carry around a picture of my face and a summary of me typed out on a page. Facebook, I'm hooked on Facebook. It's more than a want, it's more than a need. I'd shrivel up and die without my many feet. Take a look, you're hooked on Facebook. Take a look on Facebook. Book, book, book, book, book. Hello. Take a look. Canzoncina su Facebook è immancabile. Però bisogna dire che i Facebook sono diventati davvero una cosa che nessuno si sarebbe mai immaginato. I Facebook, i Twitter, tutte queste cose qui sono più autorevoli del New York Times. Ormai direttamente i personaggi famosi twittano le loro cose, non stanno più a passare attraverso gli uffici stampa e queste cose qui. Costa meno. E poi è più efficace, è più diretto. E poi anche transgenerazionale, Facebook, perché ci sono gli anziani che sfoggiano la loro foto migliore sul loro secondo profilo. Quello è un problema. Date di nascita intorno a 1930. È un problema. Insomma, c'è anche mia mamma su Facebook. Speriamo che non diventino amiche, però. Perché poi parlano male. Anche se abbiamo 40 anni, le mamme parlano male dei loro figli una con l'altra. Perché il mio mi fa un per po' esempio, anche è vero, ecco, bambino anche Alberto. Mia madre, quando sento parlare mia madre con le sue amiche, lei parla sempre male di me, no? Però poi bene, no? Cioè? Perché cominciano a parlare squarini. Signora, la vedo un po' stanca, se guarda il mio figlio mi fa tremolare. Quando mi salta sul armadio, poi mi salta sul letto e mi spacca tutte le... Capisci? Non fare del mio, che è una peste, guardi che non ci dormo la notte, Ma, signora, guarda, peggio del mio non può essere, perché poi quando lo vedo andare a prendersi la lucertola senza essere antivipera... Ma poi dove abiti, insomma, a Milano, in un appartamento, un po' di fantasia. È un esempio, però è vero che le mamme parlano male dei loro figli. Perché poi dopo, poi a un certo punto che una delle due... dice: no, no, questo mio figlio non lo fa. Devo dire la verità, che da quel punto di vista è impeccabile. Ah. Educato, prudente. Dal punto di vista delle vipere. Sì, sì. Serie, sì, sì. E l'altra: no, beh, anche il mio adesso stavo dicendo così, ma non è che abbia una fissazione, no? Capisci? Anche perché poi, devo dire, a parte questo vizietto della lucertola, però è uno scienziato mio figlio, capisci? Mio figlio è dotatissimo. Allora incomincia la gara, no? Sì, guarda, ecco, che mio figlio in positivo. Adesso vede che non c'è. E loro lo vedono, cioè, è in Inghilterra a studiare in un collegio, capisci? Ah sì, no, mio figlio no, non niente collegio. Mio figlio faceva una cosa più democratica, non so come dire. Però se sei in un pool, è un pool di bambini fenomeni. E poi comincia così. E quindi finisce male. Non dico fine. Che litigano, ma si salutano male. E poi si tolgono l'amicizia di Facebook. Vedi, alla fine si finisce lì. Tutte amicizie che non esistono. Tu quanti amici hai su Facebook, bambino Alberto? No, io ho 1000 amici. Ecco, ne conosci qualcuno di quelli lì? E questo volevo chiederti. Lì ho 1000 amici, no? Quanti sì. Mille, no? Però non ne conosco nessuno. Io adesso posso dire all'amico: senti, andiamo a giocare al rimpiattino, no? Perché non lo conosco. Bambino Alberto, tu hai davvero colto uno dei difetti principali di Facebook, cioè il fatto che la gente ha tanti amici nominali, ma che poi alla fine non frequenta nessuno di questi qua. In effetti è così, perché io, per esempio, ho 1000 amici, ho più di 1000 amici. Però a tutti gli effetti non ne conosco nessuno. Hai visto? Capisci? Allora ci sto parlando, no? Cosa c'è da agitarti? Abbi. Cosa? Albe, ma ci sto io. Ma come non c'è nessuno? Tu c'hai 1000 amici immaginari. Io tutti i giorni sto vicino a te, facciamo i giochi assieme, giochiamo, parliamo, studiamo assieme, facciamoci una bella cantata, Albe. Questo mi piace. Ah, ti piace? No, adesso non mi piace più. Come non ti piace? No, mi piace, mi piace. Dai il tempo tu, vai. 1, 2, 3, 4. Caserini, Nobiesh e Salvatore Iorio. A, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C, D, E, F, G, B, C,